29. L'isola di Montreal apparve nel pieno sole di luglio. L'isola di Gesù, il secondo pilastro della porta del Canada, faceva capolino alle sue spalle. Le acque del San Lorenzo si dividevano su un triplo percorso, attraverso strettoie facili da difendere, per ricongiungersi più a nord. Peter Johnson aveva ascoltato i racconti di quel viaggio tante volte da riconoscere ogni particolare, come fosse già stato lì. Sulla sponda orientale, fili di fumo tra gli alberi rivelavano il villaggio dei Caughnawaga, che un tempo erano stati Mohawk rinnegati, alleati dei francesi. Dalla spiaggia, donne e bambini osservavano i battelli. Superata l'ansa del fiume, l'isola maggiore si dispiegò alla vista in tutta la lunghezza. La collina era disseminata di appezzamenti e orti che digradavano fino alla città, ben stretta tra i bastioni. Il campanile della chiesa di Notre Dame svettava sull'abitato. Peter avrebbe voluto dire qualcosa, condividere un commento che esprimesse l'entusiasmo per essere arrivati alla fine del viaggio, forse anche sparare in aria per annunciare il loro arrivo. Ma per molti l'avvicinarsi alla meta era tutt'altro che gioioso, a causa del lutto che si era abbattuto sulla spedizione e dei pochi guerrieri che li seguivano. Il silenzio dominava i cuori. Guy Johnson sedeva sul battello di testa, tetro e taciturno, insieme agli uomini del dipartimento. Zio Joseph non aveva più detto nulla da quando avevano lasciato Oswego. Gli altri guerrieri non consideravano Peter abbastanza adulto per concedergli di chiacchierare con loro. Inoltre, aveva trascorso gli ultimi anni a Filadelfia, immerso negli studi e condotto una vita troppo diversa. Nell'ultima tratta del viaggio, non fosse stato per Walter Butler, Peter non avrebbe avuto con chi scambiare due parole. Ma Walter vogava sul battello del dipartimento, accanto al padre. Peter si rassegnò a tenere per sé l'emozione e pagaiò più forte. Una volta a New York, Peter aveva visto le truppe di Sua Maestà schierate in parata. Adesso, a un passo dalla guerra, l'effetto era molto diverso. Sulla Place d'Armes, di fianco alla chiesa, la guarnigione cittadina li accoglieva al rullo dei tamburi. Peter era abbagliato dal rosso scarlatto delle uniformi, ripreso negli stendardi. Il governatore Carleton attese la delegazione al centro dello spiazzo e insieme salutarono la bandiera. Guy Johnson e Daniel Claus, rigidi davanti alla Union Jack, non tradirono la stanchezza. Seguirono il cerimoniale fino all'ultimo, quando venne dato l'ordine di rompere le righe e tornare ai compiti di presidio. I soldati si dispersero rapidi in piccoli gruppi. «Combatteremo insieme a loro?» chiese Peter. Joseph gli toccò la spalla. «Non solo, mi auguro. Siamo pochi per tenere la città». Il ragazzo notò l'ombra che attraversava lo sguardo dello zio. Non chiese altro. Il governatore Carleton lesse il messaggio con attenzione, le pupille che guizzavano da una parola all'altra, quindi ripiegò il foglio e con un gesto stanco lo restituì a Guy Johnson. «Il generale Gage ha sempre un pensiero per tutti». La voce era strascicata. Guy pensò che somigliava a quella di un malato. Scambiò un'occhiata con Daniel Claus, seduto accanto a lui, e attese. Il governatore allungò le gambe sotto il tavolo, lasciando che il ventre premesse contro il bordo di legno. Riccioli grigi incorniciavano un volto glabro e sudato, rughe da pensatore increspavano la stempiatura incipiente. Con un gesto fece portare da bere. «Fa molto caldo, non trovate?» Vuotò un bicchiere di liquido giallastro e nettò le labbra carnose con un fazzoletto di pizzo. Johnson e Klaus tacquero ancora. Era vero, nell'edificio dell'intendenza c'era afa e puzzo di chiuso. La luce entrava da una sola finestra. Sudavano sotto le giubbe di lana. «Vi manda qui per difendere il Canada, certo», Carleton annuì tra sé. «Che diavolo ne sa Gage del Canada? È barricato a Boston da 3 mesi e pretende di dirigere le operazioni militari». Batté il bicchiere sul tavolo e un attendente si affrettò a riempirlo di nuovo. «Sapete, gli ho mandato i miei reparti migliori. Adesso sono costretto a tenere le posizioni con poche migliaia di uomini su un territorio grande 10 volte l'Inghilterra, mentre lui se ne sta rintanato». Le ultime parole furono mormorate tra i denti. Con uno scatto della mano srotolò una mappa sul grande tavolo e fece cenno ai due di guardarla, cosa che lui non ebbe bisogno di fare. Johnson e Klaus allungarono il collo. Il bacino del San Lorenzo era riprodotto in tutta la lunghezza, dal lago Ontario all'oceano. Carleton stese di nuovo le gambe. «A Londra non riescono a capire. Parlava a se stesso ora, sguardo in aria, mani incrociate sul ventre. È chiaro che sfugge loro la natura del problema. Fece scorrere l'indice sul bordo della mappa. Le dimensioni di questo continente. Sospirò. Guardò i due gentiluomini come si accorgesse della loro presenza per la prima volta. Abbiamo un compito difficile. Civilizzare un immenso territorio selvaggio e ostile. Un fardello pesante da portare, sì, eppure qualcuno deve farlo. Asciugò il sudore che imperlava la fronte. Fa molto caldo, vero? Fece di nuovo riempire i bicchieri e sorseggiò la bibita con aria distratta, ascoltando i rumori indistinti che giungevano da fuori, mescolati al ticchettio della pendola in fondo alla stanza. Ho chiesto rinforzi all'Inghilterra, ma finora niente. Ho anche provato a reclutare questi contadini francesi. Inutile. Ci considerano ancora degli occupanti. Non combatteranno mai per Giorgio III. Fissò i due in silenzio, serio, in attesa della risposta a una domanda implicita. E adesso Thomas Gage manda voi, insieme a 200 indiani. Stirò un sorrisetto. Che capolavoro! Forse pensa che dovrei fare come Leoni dalle Termopili. Johnson e Klaus erano statue di sale inchiodate alle sedie. Guy sentì montare la rabbia, mista a una cupa frustrazione. Possiamo reclutarne un migliaio, intervenne gelido, se solo Vostra Eccellenza ce lo consente. Con un'armata indiana potremmo scendere incontro ai ribelli e bloccarli sul lago Champlain, riconquistare Fort Ticonderoga, ricacciarli da dove sono venuti. Carleton ascoltava impassibile. Daniel Klaus si protese in avanti. Con rispetto parlando, Eccellenza, svolgo il compito di commissario per gli indiani canadesi da molti anni. Lasciate che organizziamo un concilio anche qui. Ho buone ragioni di credere che le tribù di questi territori combatteranno dalla parte del re. Il governatore forzò un colpo di tosse. Non mi risulta che voi, signor Klaus, né voi, signor Johnson, abbiate alcun titolo per svolgere il compito di commissari del Dipartimento indiano. Il tedesco ammutolì. Guy intervenne con un tono di voce appena più alto di quanto l'etichetta richiedesse. Il defunto Sir William Johnson ci ha designati i suoi successori. Come certo sapete, ribatté freddo Carleton, le nomine del Dipartimento sono prerogativa del Ministro delle Colonie. Guy si sentiva stanco, provato dal lutto recente e infastidito dalla testardaggine di quell'uomo. Ebbe la tentazione di mandare al diavolo tutto, alzarsi e tornare a casa, abbandonarsi agli eventi, anziché accanirsi contro di essi. Scacciò la sensazione con un respiro profondo. Eccellenza, per vostra stessa ammissione, avete pochi soldati per difendere Montreal. E se Montreal cade, i ribelli avranno la strada libera fino a Quebec. Carleton lo interruppe ancora. Se siete convinto che gli indiani ci presterebbero obbedienza, ditemi, cosa pretenderebbero in cambio? Regali e la conferma di quanto abbiamo promesso a Oswego. Carleton sollevò un sopracciglio che valse più di un punto interrogativo tracciato sulla carta. Che i combattenti per la corona vengano risarciti di ogni perdita territoriale. Ah, disse il governatore, niente meno. Ondeggiò sulla sedia, ma non aggiunse altro. Guy intravide un varco e decise di sfruttarlo. Non vi chiederanno di metterlo per iscritto. Sarà sufficiente che Vostra Eccellenza lo dica davanti ai capi di guerra. La pendola, lo scricchiolio dei carriaggi sulla piazza, il passo di marcia della ronda, schiamazze di bambini. La luce calava, il sole inondava i contorni delle cose. Carleton annuì, con movimenti del capo grevi e lenti. Ora vi dico cosa farò. Vi lascerò organizzare questo concilio. Radunate tutti i guerrieri che potete. I ribelli temono gli indiani almeno quanto li temo io. Avranno paura e forse non ci attaccheranno. Comunque ci farà guadagnare tempo. Tuttavia, vi faccio obbligo di restare entro i confini canadesi. Non scenderete al di sotto del 45° parallelo. Aspetterete che i ribelli lo oltrepassino per ingaggiarli in battaglia. Eccellenza, tentò di intervenire Guy Johnson, ma la mano alzata del governatore lo costrinse a tacere. Signori, io qui rappresento Sua Maestà. Sir Guy Carleton non entrerà negli annali per aver scatenato i selvaggi contro dei sudditi inglesi, anche se si tratta di traditori. Costoro dovranno pendere da una forca dopo un processo per alto tradimento, non essere sgozzati e scalpati in mezzo alla foresta. Fissò entrambi a lungo negli occhi. Questi sono i miei ordini. Attenetevi a essi senza eccezioni.